24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:22 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati in una nuova settimana 24 mattino. Saluto Valeria Bernardi, oggi sarà con noi in regia. E allora, ci dice anche nei prossimi giorni, insomma, sveglie e albe per Valeria Bernardi, insomma, Peter Bescapel alpino chissà dove è finito. Vabbè, insomma, staremo insieme. Allora, di oggi di che cosa parleremo nel nostro sondaggio? Ci concentreremo su questo aspetto di Cannes, no? Che ha fatto discutere l'espulsione di fatto di Lars von Trier. Cannes si è conclusa ieri per le dichiarazioni su Hitler, no? Ve le ricordate? Hitler mi è simpatico. Secondo voi è giusto cacciare una persona per delle idee davvero strampalate, idee assurde, come è successo, oppure c'è la libertà di opinione? Ne parliamo alle 8:30 del nostro sondaggio e poi da cosa iniziamo? Beh, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 23 maggio, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alla giustizia. Emergenza nei tribunali, presto arruolati 600 giudici in pensione e 10.000 avvocati. È uno studio, allo studio il decreto del governo per far fronte soprattutto alle pendenze, 5,7 milioni di giudizi in attesa nella giustizia civile. E poi invece tutti gli altri quotidiani si concentrano sulla settimana decisiva prima dei ballottaggi. Ministeri, scintille tra Lega e PDL, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, ministeri scontro PDL Lega. Per La Stampa, scontro tra Lega e PDL sui ministeri al nord. Per Il Messaggero, ministeri al nord, Roma si ribella. Il Giornale invece, Bossi ci tiene alle balle, votare Pisapia sarebbe come tagliarsi i cosiddetti. Per l'Unità invece c'è una foto di Pisapia in bicicletta, un altro passo, questo è il titolo. Vabbè, la politica è tutta concentrata lì, alla settimana decisiva per i ballottaggi, con annessi e connessi che vedremo dopo, più avanti, nella seconda parte della rassegna stampa. Intanto voglio andare a due segnalazioni che provengono entrambe dall'estero. La prima però riguarda alcuni italiani, la troviamo sia su Repubblica sia sul Secolo XIX. Non lasciateci nelle mani dei pirati, è il disperato appello dei marinai napoletani della Savina Caylin, rapiti da più di 3 mesi al largo della Somalia. È arrivato questo fax ieri. Dall'8 febbraio sono rapiti, sono in mano ai somali, il riscatto è di 16 milioni di dollari, un riscatto assurdo. Sono 5 italiani e 15 indiani a bordo di questa nave che hanno lanciato un disperato appello. Fate qualcosa, sia il comandante che il capomacchina. Sono trascorsi ormai 3 mesi e mezzo di stenti, sofferenze, durante i quali la nostra compagnia di navigazione non è riuscita a risolvere il negoziato. La amara realtà è che il negoziato è bloccato da più di 2 mesi. Il gruppo di pirati, per porre ulteriore pressione, ha trasferito 3 nostri connazionali a terra con evidente e ulteriore pericolo per la loro vita. Anche sul Secolo XIX, come detto, una intera pagina: dateci 16 milioni o faremo morire 3 dei vostri marinai. Ore di ansia per la nave italiana in mano ai pirati. Voglio fare questa segnalazione perché insomma, di queste vicende spesso si parla nei primi giorni e poi cala un po' il silenzio, e invece è bene tenere alta l'attenzione. La seconda segnalazione, che proviene dall'estero, è una vicenda davvero incredibile e riguarda insomma un po' il rapporto tra Chiesa e alcuni, quei rari casi di preti che si macchiano di delitti orrendi come quello della pedofilia, e sappiamo che insomma la cronaca di questi giorni proprio regala notizie in tal senso. La pedofilia? Nulla di male, bufera sui salesiani olandesi. È Andrea Tornielli, il vaticanista della Stampa, che ne parla a pagina 18. La vicenda è quella di un prete salesiano di 73 anni che è un militante impegnato nel consiglio direttivo di un'associazione in Olanda che chiede la liberalizzazione della pedofilia e la depenalizzazione dei rapporti sessuali con minorenni. E fin qui già c'è da essere inquietati. La cosa che inquieta di più è che una radio olandese è andata a intervistare il padre superiore, il padre salesiano Don Herman Spronk, il quale, sentite cosa ha detto: beh, lo so da anni che questo salesiano fa parte di questa associazione, Ma credo che simili relazioni non siano necessariamente dannose. Non dovremmo considerare l'età così rigidamente. Non si dovrebbe mai violare la sfera personale di un bambino se il bambino non lo desidera. Ma quello ha a che fare col bambino stesso. Ci sono anche bambini che loro stessi indicano che si può fare. E il contatto sessuale è allora possibile. Beh, davvero inquietanti e incredibili queste dichiarazioni, proprio nel giorno in cui racconta la stampa il cardinale Bagnasco, aprendo oggi in Vaticano l'Assemblea Generale della CEI, si concentrerà su questo tema, anche le pedofilie, le linee guida per combatterla all'interno della Santa Sede. E questo padre salesiano Don Hermann Spronk, che parlando di un suo confratello salesiano di 73 anni che fa parte di un'associazione per depenalizzare la pedofilia, dice: beh, non c'è nulla di male, in alcuni casi bisogna discutere. La trovate questa vicenda sulla Stampa, pagina 18. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. In primo piano. Eccoci qua alle 7:36 minuti, allora uno sguardo ai giornali che, francamente, per quel che riguarda come viene trattata la politica, mettono un po' di tristezza. Ma questa settimana sarà così, sarà dedicata all'avvicinamento ai ballottaggi, e allora andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali. Come detto, tutti i quotidiani aprono su queste scintille tra Lega e il PDL sul tema trasferire due ministeri al nord, come annunciato Bossi e Calderoli, come Berlusconi ha detto poi un po' rallentando, dice forse dei dipartimenti più che due ministeri. E ovviamente a Roma i politici di Roma, Alemanno, la Polverini, che anche in una serie di interviste oggi si lamentano, questo non si farà mai. Il PDL dice no ai ministeri al nord, Bossi insiste, ho la parola del premier. Ieri un Bossi scatenato, racconta il Corriere della Sera, show in strada tra multe e Le Pen, un Bossi che ha accompagnato Letizia Moratti in una serie di incontri a Milano. Eccolo qua, un Bossi scatenato. Beh, c'è la solita pernacchia, la pernacchia Formigoni, che ha detto non è d'accordo ai ministeri. Una bella pernacchia di Bossi, che poi dice stia zitto, che è lì con i voti della Lega. E poi al suo arrivo alcuni militanti del centro-sinistra lo contestano, lui rizza il pugno, vieni qui che ti mando all'ospedale io. Poi a un certo punto un'altra signora lo contesta, il grido di cani randagi, e Bossi, cornuti. E poi un cronista del Fatto Quotidiano gli chiede cosa succede se il centrodestra perde i ballottaggi, e lui, tanto li vinciamo, faccia di merda. Questo Umberto Bossi ieri in una serie di incontri. Come detto, molto molto agguerriti su questo sono... Beh, intanto il sindaco Alemanno, il sindaco di Roma fa due interviste, una a Repubblica, pagina 2, è un attacco a Roma, così si apre la crisi dentro il centrodestra, intervistato da Goffredo De Marchis, dice il trasferimento è inaccettabile, io su questa cosa non ci sto, non minaccio dimissioni perché continuerò a fare il sindaco, ho un mandato elettorale dagli elettori di Roma. Ma queste restano balle surreali, visto che si parla di traslochi leggerissimi, quasi inesistenti, ministeri senza portafogli. L'invito che faccio a Berlusconi e Bossi è questo: torniamo a parlare di Senato federale, federalismo fiscale, che sono cose serie e importanti, non dei ministeri spostati che i nostri elettori non hanno votato. E così anche sul giornale, un'intervista a Gianni Alemanno, Bossi si fermi sui ministeri o addio intesa. Dunque il sindaco di Roma punta su questo. Tra l'altro la Stampa chi intervista? Intervista un vecchio marpione della Prima Repubblica, Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del bilancio, democristiano forte. A pagina 3 della Stampa Francesca Schianchi lo intervista, manca solo che chiedano di portare le Cayman a Milano, una Lega da ridere, sono loro i veri centralisti, così dice Paolo Cirino Pomicino, per rispetto delle istituzioni trattengo una risata su questa proposta dei ministeri, ma così diventiamo lo zimbello d'Europa. I ministeri in nessun paese al mondo, anche quelli federali, sono decentrati, anziché enfatizzare il potere delle regioni sono i leghisti stessi a non credere al federalismo. E riguardo alla Prima Repubblica, ma che scherziamo che qualcuno proponesse un'ipotesi del genere? Noi eravamo persone serie. Ora sento la mia amica Letizia Moratti promettere di abolire l'Ecopass che lei stessa ha istituito. O è una boutade elettorale o una confessione di inadeguatezza. Tertium non datur. E insomma, Cirino Pomicino che stronca questa idea, ma devo dire che questa dei ministeri, insomma, non credo che farà moltissima strada, sembra più un po' di propaganda elettorale. Tra l'altro, invece, quella che potrebbe fare un po' più strada è quella, l'altra proposta che sicuramente sta suscitando un po' di scalpore, anche questa è di discussione, è quella del candidato del centrodestra Letizia Moratti, il sindaco di Milano, che è pronta alla sanatoria per le multe per l'Ecopass. L'Ecopass è l'ingresso nel centro di Milano a pagamento per le auto. Ebbene, è allo studio, è sempre più confermato da Letizia Moratti, una sorta di mini condono per le infrazioni accertate nel febbraio 2010, quando nel pieno dell'emergenza inquinamento furono congelate d'urgenza le deroghe per l'accesso al centro storico. Il sindaco Letizia Moratti conferma, i tecnici stanno studiando questa ipotesi da tempo, si tratta di sanzioni che sono già state impugnate, sulle quali il giudice di pace ha dato ragione ai ricorrenti per scarsa informazione sul provvedimento. In pratica sarebbe un autoannullamento dei verbali per la motivazione espressa dal giudice. E su questo anche si dibatte molto. Come si dibatte molto sul tema violenza, aggressioni, finte aggressioni, vere aggressioni, presunte aggressioni, non se ne capisce più nulla. A Milano ci sono state alcune aggressioni, ci sono entrambi i contendenti, sia Pisapia che la Moratti, sia le entrambe parti politiche che denunciano violenza. Entrambi, sia Pisapia che Berlusconi, pare vogliano parlare col questore per dire la situazione è intollerabile. Pisapia dice: noi, ho detto a tutti i miei sostenitori di porgere l'altra guancia. Berlusconi ha detto: c'è un clima da guerra civile, ed è andato a trovare la mamma di un assessore, l'assessore allo sport del comune, l'assessore Alan Rizzi. Questa mamma è stata oggetto di che cosa? Un'aggressione, una finta aggressione, una presunta aggressione, non si capisce. Qui divergono le versioni. Per esempio, l'Unità intervista chi? Intervista Shirin Kiahed, è una donna siriana di origine che era presente al mercato dove c'è stato questo episodio, e dice: ma che aggressione, la signora ha strattonato un sostenitore di Pisapia, il quale si è girato, gli ha appoggiato appena il ginocchio sulla coscia, e questa signora si è buttata a terra iniziando a gridare: sono stata aggredita, chiamate l'ambulanza. In pochi secondi questa è stata la versione passata per buona. Il Giornale invece dice: no, è stata una vera e propria aggressione violenta. C'è anche l'assessore Alan Rizzi che scrive una lettera, pagina 2 del Giornale, dicendo: in due giorni non ho ancora sentito una sola parola scusa con mia mamma, che è ricoverata in ospedale da due giorni perché mentre accompagnava il nostro sindaco in giro è stata vergognosamente aggredita. E tra l'altro il Giornale pubblica a pagina 3 anche la foto dell'aggressore col titolo: Pisapia difende ancora i violenti, ecco la foto dell'aggressore. È una persona che ha dei manifesti di Pisapia in mano, attorniata da altri che insomma lo indicano, come dire: sei stato tu a aggredire la signora. Sull'Unità invece c'è un'altra aggressione o presunta aggressione, non si capisce mai più niente. Antonio Romano, infermiere in pensione dell'Istituto dei Tumori di Milano, 61 anni, racconta l'aggressione: picchiato da 6 sotto gli occhi di un eurodeputato. Ecco qui, sono passato verso le 16.30 vicino al gazebo di Letizia Moratti, gli ho detto: ritiratevi, avete perso. Ma non era mica astio, era così, con uno sfottò: apriti cielo, mi hanno rincorso, mi hanno urlato di tutto, mi hanno picchiato a pugni e mi hanno detto che chi mi ha aggredito, tra quelli che mi avevano aggredito, c'era anche Carlo Fidanza, europarlamentare del Popolo della Libertà. Insomma, fa un po' un nome e cognome, un'accusa grave. Se è così, complimenti davvero, non so se mi ha dato un pugno, me l'hanno riferito altri, comunque lui era lì. Racconta anche di essere stato colpito in testa con un casco ed essere ricorso alle cure, hanno fatto anche un attacco, lieve trauma cranico, ma niente di grave. Insomma, questo il racconto invece di un pensionato che dice: sono stato aggredito da uomini del gazebo e anche da un europarlamentare del Popolo della Libertà. Vabbè, questo è il clima, c'è anche attesa invece per quel che succederà col verdetto dell'Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni, per le 5 interviste che il Presidente del Consiglio ha fatto, alcune in Rai contemporaneamente. La Rai teme una maxi multa, l'Agicom si pronuncerà tra oggi e domani. Viene intervistato sul Corriere della Sera il direttore del TG1, Minzolini, il direttorissimo, come lo chiama Berlusconi, a pagina 11. Ma che occupazione mediatica! Qui c'è un errore, questa era una notizia. Il Presidente del Consiglio parla dopo giorni di silenzio e lei che fa? Prende o lascia? E Angela Frenda, che lo intervista, dice: devo rispondere io. Vabbè, lasci perdere, rispondo io per lei. Prende come? È quello che ho fatto io, quel servizio sul Premier era una notizia. Così risponde Minzolini, che dice: sono a posto con la mia coscienza, ho fatto il mio dovere di direttore del TG di Rete Pubblica e riguardo al mio rapporto con Berlusconi lo conosco da quando facevo il notista politico, ne ho combinate di ogni, sono sempre lo stesso Augusto Minzolini, mica ho subito una metamorfosi, l'unica cosa è che lui sa che sono uno dei pochi a non avere pregiudizi nei suoi confronti come nei confronti di nessuno. Dunque Minzolini, intervistato, dice: ma che occupazione mediatica quella di Berlusconi con le sue interviste, era una notizia da dare. Vedremo l'Agicom come si pronuncia, intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. In primo piano. Il Sole 24 Ore, come detto, si concentra su una notizia importante per quel che riguarda il nostro settore giustizia, in particolare quello della giustizia civile, con un arretrato dei numeri davvero da far paura che oggi il Sole ricorda in prima pagina, 5,7 milioni di giudizi in attesa. L'arretrato civile, 2,9 miliardi di euro accertati per il costo della lentezza per aziende e Stato, questo dovuto alle inefficienze del sistema giustizia. E allora è l'intenzione del ministro della giustizia Alfano con il ministro Tremonti, che ha additato la lentezza dei processi come fattore di freno per l'economia, fare un decreto legge nel quale troverà parte che cosa? La possibilità di far rivivere le sezioni stralcio, ma soprattutto di arruolare un esercito di avvocati che per la prima volta si troverebbero a operare in maniera così numerosa dall'altra parte della barricata. 10.000 avvocati per tagliare l'arretrato. Tutti i dettagli di questo decreto allo studio sono a pagina 3. In arrivo il decreto legge. In arrivo appunto le nuove sezioni stralcio, in campo ci saranno anche, se questo decreto legge andrà in porto, anche 600 magistrati in pensione che verranno aggiunti, una sorta di pacchetto di mischia che rappresenterà dunque uno dei cardini di questo decreto legge su cui si sta lavorando, che ha per oggetto le modifiche da apportare alla disciplina della conciliazione. Lo studio dunque è questo, ricorda il Sole 24 Ore che al momento ci sono 8.873 magistrati in servizio, i giudici di pace sono invece in tutto 2.457, l'obiettivo sarebbe quello di chiamare in causa 600 magistrati in pensione ma anche 10.000 avvocati per tagliare l'arretrato, fare uno smaltimento dei vecchi ricorsi e dare così un taglio ai procedimenti pendenti nella giustizia civile. Tra l'altro voglio ricordare che oggi il Sole 24 Ore fa una pratica guida dedicata al condominio. Sentite io come lo dico, perché il condominio è una di quelle cose che mi fa veramente stramazzare. D'altronde è questo il periodo nel quale si apre la stagione delle assemblee di condominio. E dunque, per sapere tutto, all'interno di Norme e Tributi c'è una guida pratica molto interessante. Io la leggerò, insomma, perché poi ognuno deve fare il proprio dovere da condomino, ma devo dire che è una di quelle cose che trovo abbastanza pesanti, no? Se non sei capito nella vita da affrontare. Le assemblee di condominio, la vita condominiale, ma d'altronde che dobbiamo fare? Dobbiamo farlo tutti. Riguardo a una notizia economica, o meglio legata alla questione fisco, anche il Corriere della Sera ha una notizia importante, a pagina 17. Il governo studia un tetto ai pignoramenti fiscali. Sapete, una vicenda che anche il Sole ha raccontato nei giorni scorsi con il contenzioso tra contribuenti e fisco, che si protrae da tempo, soprattutto da quando gli accertamenti con l'Agenzia delle Entrate sono sempre stati con una stretta di Equitalia sulle riscossioni esecutive, che ha portato anche delle forme di protesta molto molto dure in Sardegna. Leggevo nei giorni scorsi addirittura un agente di Equitalia che si è presentato a presentare una parcella, è stato sequestrato per qualche ora da alcuni piccoli imprenditori esasperati. Insomma, il mal di tasse che ha colpito l'Italia negli ultimi mesi, racconta il Corriere con Mario Sensini, ha portato il governo ora a cercare di correre nuovamente ai ripari, anche perché si ricorda questa scadenza, tra poco più di un mese, il 1° luglio, la stretta di Equitalia diventerà ancora più forte, perché gli atti di accertamento diventeranno immediatamente esecutivi, si salterà a piedi pari la procedura dell'iscrizione a ruolo, i tempi tra l'emissione della cartella e l'obbligo di pagamento si riducono da oltre un anno ad appena 60 giorni, dunque la stretta sarà ancora più dura. Ed ecco allora, tra le ipotesi per evitare questa angosciosa stretta sui contribuenti il governo sta studiando, è questo: si starebbe approfondendo i limiti alle procedure esecutive, in particolare quelle che hanno per oggetto le prime case degli italiani e gli strumenti di lavoro dei contribuenti. Dunque, che ne so, immagino le ganasce fiscali alla macchina, se uno ce l'ha per il lavoro. Dunque, si sta studiando di limitare alcune procedure esecutive per questi beni particolari, le prime case degli italiani e gli strumenti di lavoro dei contribuenti. Vedremo di cosa si tratterà di più nei prossimi giorni. C'è molto di cronaca, devo dire anche straziante, no? Questa vicenda di questa piccola Elena che è morta, non ce l'ha fatta, questa bambina che è stata dimenticata per 5 ore dal padre, che ha avuto un vero e proprio blackout, è andato al lavoro pensando di averla portata all'asilo e invece l'ha lasciata in macchina a Teramo per 5 ore, la bambina è morta dopo vari giorni. Nella notizia negativa tutti i giornali giustamente pongono l'aspetto di questa tragedia positivo, cioè che sono stati donati gli organi, con una scelta ammirevole da parte dei genitori, e 3 bimbi sono stati salvati grazie al dono di Elena, come viene definito da tutti i giornali. Tra l'altro tutti raccontano del doppio rimorso, lo strazio del padre, che non solo ha dimenticato la bambina per 5 ore, ma pensate, a metà mattinata, quando era al lavoro, è sceso in macchina perché ha detto: ho dimenticato un documento, sono andato lì, ho aperto la portiera, ho guardato solo ovviamente nella parte anteriore e ho sentito anche un flebile gemito, ma ho pensato a uno dei nostri cani che fosse salito sull'auto, non ho guardato dietro, non ho visto nulla. Cioè un vero e proprio blackout. Dunque è tornato anche a metà mattinata, ha aperto la macchina, ha preso un documento, l'ha richiusa ed è tornato a lavorare. Chissà, magari il doppio rimpianto, il doppio rimorso, se fosse intervenuto con un paio d'ore d'anticipo, magari sarebbe riuscita a salvare la sua figlia. Tra l'altro c'è un articolo interessante di Luigi Cancrini, che è uno psichiatra, pagina 21 dell'Unità, racconta di come vale la pena riflettere su questa straordinaria lezione di stile della moglie, della madre della bambina, che anche nel momento del dramma ha detto: mio marito non ha alcuna colpa, era un uomo, è un padre straordinario, e dunque io sarò sempre al suo fianco e lo perdono per questo tragico errore. Il Quotidiano Nazionale lo mette in prima pagina: il cuore di Elena, questo è il titolo di apertura del Quotidiano Nazionale. Va bene, qui mi devo fermare con la rassegna stampa. Ricordo che nel sondaggio parliamo delle dichiarazioni scioccanti di Lars von Trier, il regista che è stato espulso da Cannes, Festival di Cannes concluso ieri, parleremo anche di questo, si è parlato di questo. Vi chiediamo: è giusto espellere, bandire una persona, un artista, un regista, chiunque sia, per le sue frasi shock su Hitler? Hitler mi è simpatico, questo ha detto. Votate su Radio24.it, ne parleremo più avanti, ed ora il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qua, sono le 8:22 minuti. No, non c'è intervista oggi. Volevo annunciare il sondaggio di cui parliamo oggi, tra poco, dopo la pubblicità e il meteo, perché, come abbiamo sentito, insomma, anche negli spettacoli, anche noi parleremo di Cannes, di quello che è successo a Cannes. Lo faremo trattando un aspetto un po' diverso, vale a dire le dichiarazioni del regista Lars von Trier, dichiarazioni che hanno fatto, hanno scioccato tutti, no? Le vogliamo sentirle in originale e poi io insomma cercherò di tradurle. Quello che ha detto Lars von Trier, il regista danese, parlando di Hitler. I understand Hitler. Capisco Hitler. I think I understand the man. Non dico che capisco, sì, capisco l'uomo, non lo chiamerei un bravo ragazzo, ma lo capisco e un po' simpatizzo con lui. Su, non è che sono per la Seconda Guerra Mondiale, eh? Non odio neanche gli ebrei. Vabbè, poi parla di un'amica ebrea, tra l'altro. Susan Biel. Very much for Jews. No, not too no, much, io sono per gli ebrei, non moltissimo, perché c'è Israele e qui Israele lo definisce con una terminologia che non posso neanche definire. In ogni caso, io non lo so se su questo vuole scambiare anche due parole l'ambasciatore, l'ex ambasciatore israeliano in Italia, Avi Patzner, buongiorno. Buongiorno. Ambasciatore, vuole rispondere anche, poi parliamo della situazione Israele-Palestina, di quello che ha detto Lars von Trier, il regista? Lei l'ha sentito a Cannes? Io credo che è scandaloso che lui abbia dichiarato che lui è nazista e che ha molta simpatia con Hitler e non capisco come hanno invitato un uomo con quelle idee antisemite e anti-israeliane a partecipare a questa riunione di gran prestigio a Cannes. Lei che è stato anche ambasciatore in Francia, tra l'altro. Io ero anche ambasciatore in Francia e ho partecipato molte volte, anche ero invitato a Cannes per il Festival del Cinema. Mai ho visto che c'è qualcuno che osa dire che è nazista. Evidentemente dopo ha detto che o che era ubriaco, o che voleva dire qualche cosa altra. Però in questo momento di verità lui ha dimostrato tutto il suo odio. Ha dimostrato tutto il suo odio per il popolo ebraico e contro lo Stato di Israele. In ogni caso, ambasciatore, noi ne parleremo tra poco, però le volevo fare un paio di domande su una situazione ben più seria, cioè la questione della trattativa di pace Israele-Palestina. Perché Israele si è molto arrabbiata quando il presidente americano Obama per la prima volta ha fatto cenno al rientro nei confini del 67, quelli prima della guerra dei sei giorni per Israele? Perché lui ha mal formulato durante il suo primo discorso, ha mal formulato la sua posizione, forse per errore o forse perché il cambiamento è stato fatto all'ultimo momento, perché tutto il mondo sa molto bene che Israele non può tornare a delle frontiere che non sono difensibili quelle frontiere. E Obama dopo la riunione con Netanyahu ha capito il suo errore e ieri durante il suo discorso davanti al gruppo pro-israeliano al congresso lui ha detto, io non ho detto che voi dovete reintegrare le frontiere del 67, ho detto che ci saranno cambiamenti che prendono in conto i cambiamenti demografici sì. Che ci sono stati nei 44 ultimi anni. Sì, ha cambiato un po' il registro effettivamente delle dichiarazioni. Sì, ha spiegato forse ciò che voleva dire dall'inizio, però non lo ha detto. E per questo tutta Israele si è emozionato molto, perché questo era un cambiamento molto serio nella posizione americana e nella conversazione con Netanyahu, Netanyahu ha detto: che fate qui? Voi volete che Israele torni a delle frontiere che lo mettono in pericolo? Mm. E lui ha detto: no, e lo spiegherò pubblicamente fra un giorno o due. E ciò che lui ha fatto, e noi siamo soddisfatti adesso che non c'è cambiamento. Insomma, un po' più soddisfatti dopo che ha cambiato il tiro. Io intanto, ambasciatore, la ringrazio per essere stato con noi. Avi Pazner, ambasciatore, ex stato ambasciatore israeliano in Italia, è stato ambasciatore israeliano anche in Francia. Insomma, la questione di Cannes, appunto, da cui siamo partiti e che vogliamo approfondire dopo la pubblicità del meteo. Queste dichiarazioni shock sicuramente di Lars von Trier, che poi ha detto vabbè, ma forse ho sbagliato, chiedo scusa, è stato cacciato da Cannes. Secondo voi è giusto, è quello che vi chiediamo, il nostro sondaggio, oppure bisogna rispettare le opinioni, seppure folli, seppure terribili, opinioni di tutti? Invece è giusto che sia stato cacciato? Votate su radio24.it se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24. 24 mattino. Allora, le 8:35 minuti, siamo qui nel nostro sondaggio, vogliamo parlare di quello che è successo a Cannes da un altro punto di vista, non certo dal punto di vista artistico, perché di quello ha parlato già la nostra Marta Cagnola, che comunque è qui con noi. Marta, buongiorno anche oggi, buongiorno Marta. Buongiorno, ci siamo. Allora, eccoci, vogliamo parlare di un'altra cosa, quello che ha detto il regista Lars von Trier, delle dichiarazioni shock su Hitler, simpatizzo per Hitler, certo non è quello che si pensa un bravo ragazzo, ma posso un po' capire l'uomo, non è che odio gli ebrei, però certo c'è Israele, che definisce, Lars von Trier definisce con una, come definirlo, come dirlo, come l'ha definito, in un modo che non offenda, insomma, diciamo che un dito, diciamolo così, l'ha definito come diciamo quello che ha detto, un dito nel culo. Questa è stata la definizione di Lars von Trier dello Stato di Israele. Vabbè, insomma, comunque il tema del nostro sondaggio, che ne pensate del fatto che sia stato cacciato per queste sue idee da Cannes, Lars von Trier? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ecco, con Marta Cagnola, che con noi, voglio salutare anche Francesco Borgonovo di Libero. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Autore di un articolo, l'unico antisemita cacciato da Cannes, questa all'indomani della cacciata. Voglio salutare anche l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Vogliamo anche ricordare, Emanuele Fiano è figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, Nedo Fiano. Onorevole Fiano, vorrei proprio partire da lei. Si sta esagerando, come dice qualcuno, con la cacciata, eccetera? Qualcuno ci scrive, insomma, vorremmo capire, non per difendere queste idee, ma in che contesto sono state dette, in che situazioni sono state pronunciate. Poi si sa, Lars von Trier è anche un personaggio, come molti artisti, un po' così, insomma, anche dedito a dichiarazioni shock spesso. Lei che dice? Ma intanto, per precisione, non è che sia stato cacciato, gli è stato detto che nel caso avesse ricevuto un premio non avrebbe dovuto venire lui a ritirarlo. Comunque, sa, lei ha anche citato la mia storia, quindi io ammetto di non essere un osservatore, diciamo, completamente oggettivo. Per me, uno che dice, senza peraltro poi ritrattare quella frase, che Hitler in fondo gli era simpatico e che Israele è quello che lei ha detto in quella frase, un dito in quel posto, mi sembra difficile, in particolare per la frase che Hitler gli era simpatico. Mi pare difficile che sia una persona che conserva un giudizio sereno su quello che è stata la storia. Vede, non è che Hitler sia un personaggio politico di cui si può dire mi piace, non è che stiamo parlando di Bossi, di Sarkozy o di Zapatero, noi stiamo parlando di una persona che è stato responsabile complessivamente di oltre 20 milioni di morti, di cui 6 uccisi, gasati e poi quasi tutti nei campi di sterminio, ebrei e poi non solo ebrei, tutti gli oppositori, i comunisti. Quindi stiamo parlando del più grande assassino, perlomeno assassino, della storia fino ad oggi a noi conosciuta. Quel personaggio, l'importante è sempre che nella memoria, nell'insegnamento ai giovani, si ricordi che cosa è stato. Non si può avere un giudizio qualsiasi quella persona. Infatti, tra l'altro, io che sono abbastanza attento osservatore dei principali siti antisemiti neonazisti in Italia, c'è stata una bella esultazione, diciamo, in questi siti. Un nuovo eroe hanno trovato, questo non so, Marta Cagnola, poi voglio andare a Francesco Borgonovo. Marta, siccome molti ci chiedono in che contesto è stato detto, intanto vogliamo dire, era una conferenza stampa, ma cos'è, si è ammattito la von Trier, aveva bevuto qualcosa, se ha deciso di, non so, di provocare, che è successo? No, allora, anzi, lui dice che è perché non beve più, perché è diventato sober, clean, che fa più sciocchezze. Poi potremmo anche metterci a ragionare su questo verbo to sympathize, non voglio fare English 24, ma insomma sì. non ha parlato di simpatia nei confronti di Hitler, il suo era un discorso più complesso. Qual è stato il problema? Che lui ha passato questa conferenza stampa da una battuta di pessimo gusto all'altra. Prima ha raccontato scherzando del suo prossimo film, dicendo sarà un porno lungo 3 ore con protagoniste Charlotte Gainsbourg e Kirsten Dunst, che erano accanto a lui, basite, non riuscivano più a uscire da questa situazione. Poi ha fatto outing sulla depressione della Dunst, ha detto sì, la Dunst sa cos'era depressione, forse non potevo dirlo a Kirsten, beh ormai l'ho detto, voi dimenticatevelo. Poi ha detto delle battute pessime nei confronti di Suzanne Bier, sua compatriota, sua, anche lei danese ed ebrea. Ed ebrea. E poi ha detto questa frase che si presta a molte interpretazioni: io non credo che Lars von Trier sia un antisemita. Poi possiamo metterci a ragionare ancora su un altro piano, perché ha scatenato moltissimi dibattiti sull'antisemitismo e i sentimenti nei confronti di Israele. Questo è ancora un altro piano. Questo è un altro piano, sì, sicuramente. Criticare la politica di uno Stato si può. Dire che Israele, per il fatto della sua stessa esistenza, è quella cosa lì che ho detto, è diverso, insomma. E vuol dire metterne in dubbio anche la legittimità ad esistere come Stato e come abitanti di quello Stato. Però Francesco Borgonovo, perché hai scritto L'unico antisemita cacciato da Cannes? Non dico prendendo le difese, questo no, alle frasi Lars von Trier, però dire forse c'è troppa esagerazione, come ha detto Catherine Deneuve ieri a Cannes, cioè scandaloso von Trier, ma anche scandalosi gli attacchi nei suoi confronti? Ma no, ma io non ho assolutamente difeso von Trier, perché von Trier è indifendibile. Quello che dico io è che sul suo caso c'è un'enorme ipocrisia, anche voglio dire dimostrata dal fatto che poi è stata premiata la Dunst per il suo film. Il von Trier viene cacciato perché ha nominato Hitler, che persona sana di mente oggi nel 2011 potrebbe andarsi di difendere, quindi ha ovviamente una malattia. Poi ci sono altre persone, altri registi, Ken Loach, come il palestinese Suleiman, che vanno a Cannes con C'è il cellulare che però fa un po' di bizze, Francesco, vediamo di sistemarlo perché non si sente benissimo. Vorrei chiedere, Emanuele Fiano, onorevole Fiano, è un antisemita secondo lei per queste dichiarazioni della von Trier? La nostra Marta Cagnola dice, insomma, non lo definirei un antisemita di per sé. Ma io devo dire, non sono tanto in grado di fare delle discussioni astratte, cioè non so se esistano, non è che l'antisemita è come un alcolista, per cui se tu ti fermano i carabinieri con la macchina, ti fanno l'esame del palloncino, hai più di un tot di alcol etilico nel respiro, ti fanno la multa, ti tolgono la patente. Non è che ci sia, diciamo, una configurazione complessiva. Può essere che Lars von Trier sia la prima volta che recita una frase di questo genere. Io penso, non lo so, non mi pare che l'abbia detto mai prima. Quella frase è da censurare. Peraltro io penso che se si fosse alzato il regista Pinco Pallino, Nanni Moretti, diciamo, e nella conferenza stampa avesse detto: io ammiro fortemente gli esecutori dello sterminio del popolo ruandese. Oppure un altro avesse detto: secondo me la Francia per noi è come un dito in quel posto. Beh, ci sarebbero state reazioni. Ora, penso anche che se uno avesse detto quella frase su Ruanda piuttosto che, non so, sullo sterminio degli armeni o quant'altro, ci sarebbe assolutamente potuto essere il caso che membri della giuria avrebbero potuto chiedere che quel regista non partecipasse alle premiazioni. E poi voglio dire un'altra cosa, mi pare che Borgonovo, prima che perdesse la linea, stesse accennando al fatto che forse non è l'ultimo. Sì, è vero, non è l'ultimo. Ci sono stati dei casi, non mi ricordo come si chiama lo stilista francese che è stato Gagliano, poi ci sono stati attori americani, anche Gibson, Mel Gibson eccetera. Allora io penso che sia compito di tutti evitare, lo sdoganamento di alcuni tabù, cioè come diceva giustamente Borgonovo, nel 2011 se uno pensa che si possa sdoganare la questione Hitler, va fermato. Io non dico che va fermato togliendo le libertà personali, però sì, nel mondo dei media, nel tempio del cinema internazionale, bisogna fare molta attenzione che questi messaggi, sarebbe stato molto più grave secondo me, che questo messaggio fosse stato passato sotto silenzio. Vediamo un po', no, ma è interessante, Borgonovo, visto che insomma la linea un po' l'abbiamo recuperata, anche se forse un po' ballerina, la questione è proprio questa, cioè che non è il primo e l'ultimo, ma che deve fare una comunità, in questo caso comunità artistica, nei confronti di queste situazioni? E deve prendere per quelle che sono, cioè come le affermazioni di un imbecille, come si è comportato la Sontriere, questa è la parola corretta, però non deve spaventare, perché è ovviamente una provocazione insulsa e ridicola che nessuno accetta se non un gruppo fanatici antisemiti o hitleriani. Quello che a cui bisogna stare attenti invece sono le persone come Ken Loach, come Suleiman, per cui l'unico ebreo buono è quello morto, cioè finché uno nomina Hitler, che è una follia, allora lo si può cacciare. Se uno dice, come ha detto Suleiman, che Israele esercita un fascismo pornografico, allora lo si tiene, gli si battono le mani e lo si fa passare per un combattente della causa palestinese. Questa è l'ipocrisia enorme, perché finché uno se lo prende con lo Stato ebraico va bene, anzi tante grazie, e magari lo premiamo, lo invitiamo con tutti gli onori, che lo c'è, credo che sia persona non grata. E quando uno fa una sparata ovviamente fuori dal mondo in cui dice comprendo Hitler e poi si è reso conto lui stesso di aver detto una bestialità, perché poi ha cercato di rimediare ed era evidente che era una follia, a quel punto lo si caccia. Ma insomma sono due pesi e due misure, trattandosi di dichiarazioni. Insomma, le altre, quelle contro Israele, sono più pericolose perché sono più subdole, perché insomma in qualche modo le giustifichiamo e le comprendiamo e ci fanno solidarizzare con la Palestina. Sì, dici parlare di avvicinanza, comunanza con Hitler mette talmente nell'assurdità dell'affermazione, talmente fuori dal panorama, che dice vabbè, stiamo parlando con un pazzo, con un antisemita, e per cui viene isolato, e si pensa così che questo germe di follia venga isolato in questo modo. Ripartiamo dopo le informazioni sul traffico, qualche ascoltatore su questo. Io vorrei chiedere a capire anche se le idee, seppur folli, seppure, debbano essere fermate anche così come è stato fatto, cioè cacciandolo comunque, impedendogli di ritirare un premio, dicendo una persona non grata, che è una cosa, comunque è un provvedimento serio, importante. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, i nostri ascoltatori con il 64% dicono sì, è stato giusto cacciarlo, comunque allontanarlo per queste frasi. Vorrei capire che ne pensa Simona da Roma. Buongiorno. Buongiorno, sono Simona da Roma e sono laureata in filosofia politica proprio con una tesi sull'antisemitismo. E volevo dire questo, che ci sono certi argomenti che non possono essere protetti dal concetto di libera opinione. E questa è una frase bellissima che fu espressa da Jean-Paul Sartre in un testo del 1946, Ebrei, che pochi conoscono e pochi leggono. E lui paragonava questo concetto di libera opinione come il concetto della donna di casa che fa le faccende, e a un certo punto, per chiudere una conversazione su questo argomento, diceva basta, questa è la mia libera opinione. Volevo ricordare anche Pierpaolo Pasolini, che nel 67 prese la difesa dello Stato di Israele con una lettera fortissima, un attacco all'unità di Trombadori allora, sì, e sì, disse, ma quale Stato non è nato male? Dice, però a un ebreo gli si potrà mai garantire che un giorno non ci sarà un'altra Auschwitz? E poi volevo ricordare Jan Buruma, sul Corriere della Sera, che ha scritto un articolo bellissimo 2 anni fa, in cui parlava proprio del concetto di libera opinione, che i confini vanno ridimensionati e che il concetto di libertà non è un concetto libertà di, ma bisogna parlare di un'educazione alla libertà, e quindi è stato fatto bene benissimo. Quello di escludere questa persona dal festival. La sua posizione è stata chiarissima ed è chiarissima. Io non sono grazie. Ebrea. No, ma che c'entra? Non c'è bisogno di dire, non c'è niente da aggiungere. Che c'entra? Neanch'io sono ebreo. Io penso ma di essere stata più che chiara. In chiarissima, cosa. Simona, non c'è bisogno che dica sono ebrea, non sono ebrea, non aggiunge, non toglie nulla. Corrado da Prato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire solo, lui è esagerato nella sodomia manuale, diciamo, però il contesto è. Se lui diceva le stesse cose contro un altro paese del mondo, Germania, avrebbe avuto lo stesso trattamento o no? Beh, ho capito, ma Corrado, scusi, intanto lui è arrivato alla questione di come la chiama lei, sodomia manuale su Israele, dopo aver citato Hitler, insomma, no, la sappiamo tutti anche la storia, un pochino di storia la mastichiamo un po' tutti, cioè, non è che ha criticato, che ne so, la nascita della rivoluzione francese, voglio dire, no, Corrado, mi sembra che lei voglia sminuire il contesto delle dichiarazioni. Non voglio fare questo. Cioè se uno si sveglia e dice la politica, lo ripeto per la terza volta, la politica dello Stato di Israele, per questo governo israeliano sta sbagliando nella trattativa di pace con i palestinesi. Questa è un'opinione legittima che uno può dire, eccetera. Ma no, quello è un'altra cosa quello che ha detto von Trier, no? Sì, io dico, ma se l'aveva detto un altro paese, avrebbe avuto lo stesso trattamento o no? Ma in che senso? Cosa doveva dire di un altro paese? Della Germania? Cosa doveva dire della Germania? Ma se diceva la stessa cosa nei confronti della Germania, sarebbe... Cioè, dico, la Shoah è stata una tragedia per il popolo ebraico, ma hanno anche un credito illimitato, mi sembra, perché non si può assolutamente dire niente, perché come si tocca l'argomento si finisce nel torto. Eccola lì dove la volevo far arrivare. Grazie Corrado da Prato. Avete un credito illimitato, onorevole Fiano, per cui non si può parlare di questa cosa? Con la storia. Questo è un cliché che torna. Noi non abbiamo nessun credito illimitato. Abbiamo imparato che la storia va raccontata bene perché non succede ad altri, cosa che è già successa, peraltro. Io non a caso ho citato il Ruanda. Io invito l'amico che ha telefonato a pensare cosa sarebbe successo. Intanto, cosa sarebbe successo se Nanni Moretti avesse detto, io dico Nanni Moretti per dire. Sì, il nostro italiano. Un regista famoso che va a Cannes, italiano, avesse detto la Germania è per noi italiani un dito nel culo, per usare l'espressione di Lars von Trier, e lei pensi se i giornali tedeschi avrebbero scritto qualcosa o meno, se non si sarebbero arrabbiati. Ma in più, se questa frase fosse venuta dopo aver detto sì, ho una certa simpatia per gli sterminatori del popolo ruandese o per gli esempi che vi ho fatto, del popolo armeno, eccetera. E c'è anche da dire che non c'è nessun credito illimitato, ma per fortuna gli europei hanno imparato che quella cosa terribile che è stata la Shoah, che ricordo e ripeto, non ha colpito solo gli ebrei, diciamo, ma per gli ebrei è stata la parte maggiore, è nata all'interno della cultura, della migliore cultura europea, quella tedesca, per cui gli europei si sono vaccinati sul fatto che bisogna stare attenti, perché non è che quella cosa è nata in un paese sconosciuto. Sì. La cultura di un posto molto evoluto può torcersi verso il massimo del male. No, è nata tra di noi, cioè insomma questo. Allora io vorrei capire da Marta Cagnola, Marta, che succederà ora a Lars von Trier? Perché Catherine Deneuve ieri l'ho sentito che ha detto, beh insomma adesso è scandaloso ciò che ha detto, ma è anche scandaloso come lo stanno trattando. Che succederà? Cioè potrà fare più film? No, guarda che poi i boomerang sono infiniti in questi casi. Perché già ieri sera, quando è arrivato il premio a Kirsten Dunst, sì, e lei sul palco ha ringraziato il festival per aver lasciato il premio in competizione e ha ringraziato Lars che mi ha permesso di essere così coraggiosa e così libera in questo film, c'è applauso per Lars von Trier. Quindi forse molti hanno pensato davvero che le affermazioni fossero quelle di un pazzo un po' confuso e non di un pericoloso criminale. Il problema è che quando lui si è giustificato dicendo sono un pazzo un po' confuso, all'inizio il festival ha detto va bene, ha bozzato e poi, no. E poi l'ha dichiarato persona non grata e poi però ha premiato in un qualche modo il film. Sì, certo, la miglior attrice, vogliamo ricordare la miglior attrice. Quindi alla fine dare il premio alla miglior attrice è comunque dare un premio al film. Beh, chiaro, quindi alla chiaro. Fine vedi che le strade sono infinite, i boomerang sono infiniti. Ma sì, ma poi io credo che non è che non farà più film, ma che per carità faccia tutti i film che vuole. Non so se Luigi da Firenze, riusciamo a chiudere con lui in 30 secondi. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, sia sintetico. Ma io sì, estremamente sintetico. Io sono convinto che bisognerebbe lasciare parlare le persone e dare spazio anche a opinioni diverse, contrastanti, scioccanti. Questo in una libertà di libera espressione. Beh, delle cose. Più libero di così lo è stato, più libero di così. Libero, sì, ma nessuno... le reazioni sono state eccessive, io credo, e credo che ci sia un'eccessiva sensibilità nelle questioni ebraiche, qualsiasi esse siano. Non mi sembra che la Trontia abbia detto io sono contento che siano morti tanti ebrei nella... No, non ha detto questo, però non andiamo sempre a vedere la virgola a dire per... Non ha proprio detto sono contento che siano morti 6 milioni di ebrei. No, è vero, questa frase così non l'ha detta, però continuare a dire non ha detto proprio quello sembra proprio volere cercare di sminuire. Ha detto una cosa intollerabile, e poi la libertà c'è perché l'ha pronunciata, insomma, è anche la libertà di Khan di decidere di allontanarlo. In ogni caso, grazie a tutti, da Marta Cagnola, Francesco Borgonovo di Libero e l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico per essere stati con noi, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Valeria Bernardi oggi in regia. Mi giro, è arrivato Oscar, c'è Oscar Giannino, grande ritorno, oggi ospita il direttore della stampa Mario Calabresi. Oscar Giannino ritorna ai microfoni, allora gli cedo il microfono con somma gioia. Noi ci troviamo domani alle 7:20.